Capitolo 27 Fantasmi. Quell'anno a Ingleside, ottobre, fu proprio un mese felice, pieno di giorni in cui dovevi solo correre, cantare e fischiettare. La mamma era di nuovo in piedi, rifiutando di essere trattata come una convalescente, faceva progetti per il giardino. Di nuovo rideva e Jem aveva sempre pensato che la mamma avesse una risata bella e gioiosa. Rispondeva alle numerose domande. Mamma, quanta distanza c'è da qui al tramonto? Mamma, possono le anime dei morti davvero tornare a Halloween? Mamma, quali sono le cause della causa? Mamma, non preferiresti essere uccisa da un serpente a sonagli che da una tigre? Perché la tigre ti picchia e poi ti mangia? Mamma, che cos'è un cantuccio? Mamma, una vedova è davvero una donna i cui sogni si sono avverati? Willie Taylor ha detto così, mamma. Che cosa fanno gli uccellini quando piove forte? Mamma, siamo davvero una famiglia troppo fantasiosa? L'ultima domanda era di Jem, che aveva sentito a scuola ciò che aveva detto Mrs. Alec Davis. A Jem non piaceva per niente Mrs. Alec Davis, perché ogni volta che la incontrava con papà o la mamma, gli dava un colpetto con il suo lungo dito indice, chiedendo: Jemmy è un bravo ragazzo a scuola? Jemmy! Che fantasticassero un po'. Sicuramente lo deve aver pensato Susan quando scoprì che la passerella per il granaio era generosamente decorata con macchie di vernice rossa. Abbiamo creato la scena per la nostra battaglia, Susan, spiegò Jem. Sono di pozze di sangue coagulato. A volte di sera, su una bassa luna rossa, si vedevano file di oche selvatiche che volavano nel cielo. Jem, guardandole segretamente, si rammaricava di non potersi unire a loro e volare in terre lontane, verso sconosciute coste e riportare scimmie, leopardi, pappagalli, cose del genere. Esplorare il mare dei Caraibi. C'erano parole come il mare dei Caraibi che a Jen suonavano sempre irresistibilmente seducenti. Segreti del mare erano le altre. Essere intrappolato tra le mortali spire di un pitone e combattere con un rinoceronte ferito era praticamente il lavoro giornaliero di Jem. E solo la parola drago gli provocava un entusiasmo tremendo. La sua foto preferita, appuntata sulla parete ai piedi del suo letto, era di un cavaliere in armatura su un meraviglioso e possente cavallo bianco dritto sulle zampe posteriori, mentre il suo cavaliere stava infilzando un drago con una stupenda coda che fluiva dietro in attorcigliamenti e in spire e che finiva con una forchetta. Una dama in tunica rosa stava inginocchiata tranquilla e composta sullo sfondo con le mani giunte. Non c'era ombra di dubbio che la dama somigliasse moltissimo a Mabel Reese e per avere i favori da una di 9 anni erano già state distrutte molte lance nella scuola dei Glen. Anche Susan notò la somiglianza e prendeva in giro Jem che arrossiva furioso. Il drago in realtà era un po' deludente. Sembrava così piccolo e insignificante sotto quell'enorme cavallo. Non sembrava esserci un qualche speciale valore nell'infilzarlo. I draghi dai quali nei suoi sogni segreti Jem salvava Mabel erano molto più dragoneschi. L'aveva salvata il lunedì precedente dal vecchio maschio d'oca di Sarah Palmer. Lei aveva notato il suo nobile aspetto quando aveva afferrato la sibilante creatura con il collo da serpente per lanciarla oltre la recinzione. Ma un maschio d'oca non era per niente romanzesco come era invece un drago. Fu un ottobre da molti venti, deboli venti che facevano le fusa nella valle e venti forti che frustavano la cima degli aceri, venti che ululavano lungo la sabbiosa costa, ma si acquattavano quando arrivavano sulle rocce, si acquattavano e saltavano. Le notti, con un'assonnata e rossa luna piena di equinozio autunnale, erano abbastanza fresche da rendere piacevole pensare a un bel letto caldo. Gli arbusti di mirtillo diventavano scarlatti, le felci morte erano di un ricco rosso marrone, il sommacco bruciava dietro il fienile, i campi bruciati di Upper Glen erano macchiati qua e là con il verde dei pascoli. Nell'angolo del prato, vicino agli abeti, c'erano crisantemi dorati e rugginosi. C'erano scoiattoli che chiacchieravano con gioia ovunque e grilli violinisti per danze fatate su un migliaio di colline. C'erano le mele da raccogliere e le carote da dissotterrare. A volte i ragazzi andavano a scavare vongole con il capitano Malachi, quando le misteriose maree lo permettevano. Maree che entravano per accarezzare la terra, ma scivolavano poi indietro nelle proprie profondità marine. C'era l'odore delle foglie bruciate per tutto il Glen. Nel fienile ci trovavi un mucchio di gialle zucche enormi e Susan aveva fatto le prime torte con i mirtilli rossi. Ingleside risuonava di risate dall'alba al tramonto, anche quando i bambini più grandi erano a scuola. Ora Shirley e Rilla lo erano abbastanza per tenere alta la tradizione del riso. Anche Gilbert rideva più del solito quell'autunno. Mi piace un papà che può ridere, riflette Jem. Il dottor Bronzo di Mowbray Narrows non ride mai. Si diceva che tutti i suoi nuovi pazienti fossero dovuti solo al suo aspetto di saggio gufo, ma la professionalità di papà era superiore e la gente era proprio malata quando non riusciva a ridere su una delle sue battute. Anna era impegnata nel suo giardino, ogni giorno, se c'era caldo, bevendo i colori come se fossero vino. Lì, dove gli ultimi raggi del sole cadevano sugli aceri cremisi, si crogiolava nella squisita tristezza della bellezza fugace. In un fumoso pomeriggio grigioro, lei e Jem piantarono tutti i bulbi di tulipano e nel mese di giugno ci sarebbe stata una resurrezione di rosa, scarlatto, viola e oro. Non è bello prepararsi per la primavera quando sai che devi affrontare l'inverno, Jem? Ed è bello fare in modo che il giardino sarà bellissimo, disse Jem. Susan dice che è Dio che rende tutto bello, ma siamo in grado di dargli una mano, possiamo, mamma? Certo, sempre, sempre, Jem. Lui condivide con noi questo privilegio. Ma niente è mai completamente perfetto. Gli abitanti di Ingleside erano preoccupati per Cock Robin. Gli era stato detto che quando i pettirossi se ne sarebbero andati via, anche lui l'avrebbe fatto. Tenetelo chiuso fino a che tutti gli altri se ne sono andati e cada la prima neve, consigliò il capitano Malachi. Così avrà modo di dimenticare e starà bene fino all'arrivo della primavera. Così Cock Robin era una sorta di prigioniero. Diventò molto inquieto. Volava senza rotta per la casa o si posava sul davanzale e guardava con nostalgia i suoi compagni che si preparavano per rispondere a chissà quale misteriosa chiamata. Anche il suo appetito cominciava a diminuire e nemmeno i vermi o le noci più deliziose che Susan gli dava lo tentavano. I bambini gli spiegarono tutti i pericoli che poteva trovare: freddo, fame, nemici, temporali, notti oscure, gatti. Ma Cock Robin aveva sentito e ascoltato l'appello e tutto il suo essere desiderava rispondere. Susan fu l'ultima ad arrendersi. Fu davvero scura in volto per diversi giorni, ma alla fine disse: lasciatelo andare, è contro natura trattenerlo. Lo lasciarono libero l'ultimo giorno di ottobre, dopo che era stato recluso per un mese. I bambini gli diedero il bacio di addio con gli occhi pieni di lacrime e lui volò via con gioia, tornando la mattina dopo sul davanzale di Susan a cercare le briciole e poi allargò le ali per il lungo volo. Lui tornerà da noi in primavera, tesoro, disse Anna a Rilla singhiozzante, ma Rilla non aveva intenzione di lasciarsi consolare. Oh, la primavera è troppo, troppo, molto lontana, singhiozzò. Anna sorrise e sospirò. Le stagioni, che sembravano così lunghe per la piccola Rilla, per lei stavano cominciando a passare troppo rapidamente. Un'altra estate era finita, passando veloce dalla vita dell'eterno oro in fiaccolanti pioppi. Presto, troppo presto, i bambini di Ingleside non sarebbero più stati dei bambini. Ma erano ancora suoi, suoi per accoglierli quando arrivavano a casa la sera, suoi per riempire la loro vita con stupore e gioia, suoi per amarli e confortarli e rimproverarli, ma appena un po', perché a volte erano davvero birichini, anche se difficilmente meritavano di essere chiamati quella banda di demoni di Ingleside, come disse Mrs. Alec Davis quando sentì che Bertie Shakespeare Drew era stato leggermente bruciacchiato mentre faceva la parte di un pelle rossa che veniva bruciato sul rogo nella Rainbow Valley. Jem e Walter ci impiegarono un po' di più a slegarlo di quanto avessero previsto. Anche loro si bruciacchiarono un pochino, ma nessuno di loro si impietosì. Quell'anno novembre fu tetro, un mese di nebbia e di vento da est. In alcuni giorni non c'era altro che una fredda nebbia che galleggiava o andava sul grigio mare al di là della bara di sabbia. I pioppi tremanti lasciavano cadere le loro ultime foglie. Il giardino era morto e tutti i suoi colori e la sua personalità se n'erano andati, tranne l'appezzamento di asparagi che era ancora un'affascinante giungla d'oro. Walter dovette abbandonare sul lacero il suo studio appollaiato e imparare le sue lezioni in casa. Pioveva, pioveva, pioveva. Il mondo potrà mai essere di nuovo asciutto? Gemette disperata di. Poi ci fu una settimana immersa nella magia di sole dell'estate indiana. Nelle serate di freddo pungente, la mamma con un fiammifero avrebbe acceso le frasche nel focolare e Susan avrebbe fatto le patate arrosto per cena. Il grande camino era il centro della casa in quelle serate. Quando dopo cena ci si riunivano attorno, era il momento saliente della giornata. Anna cuciva e programmava i guardaroba invernali dei piccoli. Nan deve avere un vestito rosso, lo desidera tanto. E a volte pensava a Hannah, che tutti gli anni tesseva il vestito del piccolo Samuel. Le mamme erano sempre le stesse attraverso i secoli. Una grande sorellanza d'amore e di servizio. Quelle ricordate e quelle non ricordate, alla stessa maniera. Susan ascoltava sillabare i bambini e poi ognuno di loro si divertiva come preferiva. Walter viveva nel suo mondo di fantasia e di bellissimi sogni. Era intento a scrivere una serie di lettere che lo scoiattolo che viveva nella Rainbow Valley inviava allo scoiattolo che viveva dietro il fienile. Susan finse di farne beffe quando le lesse, ma segretamente, fatte delle copie, le mandò a Rebecca Due. «Le ho trovate leggibili, Miss Due cara. Tuttavia, tu potresti considerarle troppo banali per essere lette. In questo caso so che perdonerai una vecchia donna rimbambita che con queste ti disturba». Walter è considerato un bambino molto intelligente a scuola e almeno queste composizioni non sono poesie. Potrei anche aggiungere che il piccolo Jem ha avuto 99 per il suo esame di aritmetica la scorsa settimana e nessuno capisce perché l'altro punto è stato escluso. Forse non dovrei dirlo, Miss Diu cara, ma è la mia convinzione. Quel bambino è nato per essere un grande. Noi non saremo vive per vederlo, ma lui può diventare il primo ministro del Canada. Gamberetto si godeva il caldo e Passy Willow, la gattina di Nan, che ricordava una squisita, delicata e piccola lady vestita di nero e argento, saliva in modo imparziale sulle gambe di chiunque. «Due gatti e ovunque tracce di topo nella dispensa», fu il commento di disapprovazione di Susan. I bambini discutevano delle loro piccole e comuni avventure. E intanto il lamento dell'oceano lontano arrivava attraverso la fredda notte d'autunno. A volte arrivava Miss Cornelia per una breve visita, mentre il marito scambiava opinioni politiche nel negozio di Carter Flagg. Le piccole caraffe allora drizzavano le lunghe orecchie per ascoltare gli ultimi pettegolezzi di Miss Cornelia, perché sapevano che c'erano sempre delle cose molto interessanti riguardo a varie persone. Sarebbe stato divertente la domenica successiva sedere in chiesa e guardare quelle stesse persone assaporando ciò che sapevano, mentre quelle se ne stavano sedute, tutte compite e a modo. Ah, ma come si sta bene qui, cara Anna? È veramente una notte fredda e pungente e comincia a nevicare. Il dottore è fuori? Sì, mi è dispiaciuto vederlo andar via, ma ha telefonato da Harbour Head, Miss Brooker Shaw, che ha insistito per vederlo, disse Anna, mentre Susan rapidamente e furtivamente toglieva dal tappeto del focolare un'enorme lisca di pesce che Gamberetto ci aveva portato, pregando che Miss Cornelia non l'avesse notata. Quella è malata come me, disse Susan amaramente, ma ho sentito dire che ha una nuova camicia da notte di pizzo e senza dubbio vuole che il suo dottore la veda con quella indosso. Ah, camicia da notte di pizzo. Gliel'ha portata sua figlia Leona, che è tornata a casa da Boston. È arrivata venerdì sera con quattro bauli, disse Miss Cornelia. Mi ricordo quando è partita per gli States 9 anni fa, trascinando una vecchia valigia rovinata Gladstone, con il contenuto che usciva da ogni parte. Fu quando ebbe una forte depressione per il tradimento di Philip Turner. Cercò di nasconderlo, ma tutti lo sapevano. Ora torna per fare l'infermiera di sua madre, così dice. Cercherà di flirtare con il dottore, ti avverto, Anna cara, ma non credo che a lui interesserà, anche se è un uomo. E tu non sei come la moglie del dottor Bronson di Mowbray Narrows. Lei è molto gelosa delle pazienti del marito, così mi hanno detto. Sì, e delle infermiere qualificate, disse Susan. Beh, alcune di queste infermiere qualificate sono troppo belle per il loro lavoro, disse Miss Cornelia. C'è Jenny Arthur, per esempio, fa un intervallo tra un caso e l'altro e tenta di evitare che i suoi due pretendenti si accorgano l'uno dell'esistenza dell'altro. Proprio perché è bella, ma non è più giovane, disse Susan con fermezza. Sarebbe molto meglio per lei che facesse una scelta e si sistemasse. Ah, guardate sua zia Eudora. Lei disse che non avrebbe pensato al matrimonio fino a che non si fosse stufata di civettare, ed ecco il risultato. Ancora cerca di flirtare con ogni uomo in vista, anche se lei ha 45 anni e li ha tutti, eh? Questo è ciò che succede nel fare un'abitudine del civettare. Hai saputo, signora dottora cara, quello che disse la sua cugina Fanny quando si è sposata? Tu stai prendendo i miei avanzi, le disse. Seppi poi che ci fu un forte scambio di parole e da allora non si parlano più. Vita e morte sono in potere della lingua, mormorò Anna distrattamente. Sagge parole, cara. A proposito, come vorrei che Mr. Stanley fosse un po' più prudente nei suoi sermoni. Ha offeso Wallace Young e Wallace lascerà la chiesa. Tutti dicono che la predica di domenica scorsa era diretta a lui. Beh, se un pastore predicando evidenzia i difetti caratteristici di uno dei fedeli, tutti noi pensiamo che parli solo di lui, dichiarò Anna. Un cappello di seconda mano a qualcuno può andare bene sulla testa, ma non per questo è stato fatto per lui. È sensato, approvò Susan. Io ho una vera antipatia nei confronti di Wallace Young. 3 anni fa ha permesso a un'azienda di pitturare annunci pubblicitari sulle sue vacche. Quello è troppo per far soldi, a mio parere. Beh, finalmente suo fratello David si sposa, disse Miss Cornelia. È da moltissimo tempo che sta pensando che cosa sia più a buon mercato, se sposarsi o assumere una domestica. Si può condurre una casa senza una donna, ma è difficile, Cornelia, mi disse una volta dopo la morte della madre. Ho avuto l'impressione che stesse tastando il terreno, ma da me non ha ottenuto nessun incoraggiamento. E alla fine si sposerà con Jesse King. Jesse King? Ma io pensavo che stesse corteggiando Mary North. Dice che non si sarebbe mai sposato con una donna che mangia il cavolo. Ma c'è una storia che gira, dove lui le ha fatto una proposta di matrimonio e lei l'ha presa a ceffoni. E si dice che Jesse King abbia affermato che avrebbe voluto un uomo con un aspetto migliore, ma che lui sarebbe anche andato bene. Beh, indubbiamente per qualcuno ogni porto è buono in mezzo a una tempesta. Non credo. Mrs. Marshall Elliott, che la gente da queste parti dica la metà delle cose che sono loro addebitate, la riprese Susan. È mia opinione che Jesse King sarà una moglie per David Young molto meglio di quanto lui si meriti. Anche se per quanto riguarda il suo aspetto, devo ammettere che sembra qualcosa che esce a bordato fuori assieme alla marea. Lo sapete che Holden e Stella hanno una bimba? Chiese Anna. Così ho sentito. Spero che Stella sia più sensata nei suoi confronti di quello che sua madre Lisette fu con lei. Ci crederesti, Anna cara, che Lisette si mise a piangere perché la figlia di sua cugina Dora camminò prima di Stella? Oh. Noi mamme siamo una razza sciocca, sorrise Anna. Io ricordo che mi sentii proprio un'assassina quando il piccolo Bob Taylor, che aveva la stessa età di Jem, un giorno mise 3 denti prima che Jem ne avesse uno. Hanno operato Bob Taylor alle tonsille, disse Miss Cornelia. Perché noi non abbiamo mai fatto delle operazioni, mamma? Chiesero i bimbi, Walter e Dee, insieme, con un tono offeso. Molto spesso dicevano la stessa cosa insieme. Poi legavano le loro dita ed esprimevano un desiderio. Noi pensiamo e sentiamo la stessa cosa su ogni cosa, era la spiegazione abituale che Dee dava con molta serietà. Potrò mai dimenticare il matrimonio di Elsie Taylor, disse Miss Cornelia in preda ai ricordi. La sua migliore amica, Maisie Millison, era quella che doveva suonare la marcia nuziale e al suo posto ha suonato la marcia funebre dal Saul. Naturalmente ha sempre detto che aveva fatto un errore perché era tanto agitata, ma la gente si era fatta una propria opinione. Lei voleva Mac Moorside per sé, un mascalzone dal bell'aspetto, con una bella parlantina. Alle donne diceva sempre solo quello che loro volevano ascoltare. ha reso la vita di Elsie miserabile. Ah beh, cara Anna, entrambi sono da tempo andati verso la terra del silenzio. E mesi ed anni sposata con Harley Russell e tutto il mondo si è dimenticato che lui le fece la dichiarazione credendo che lei avrebbe detto no, e lei invece disse sì. Harley stesso l'ha dimenticato. Proprio tipico di un uomo. Pensa che ha la miglior moglie del mondo e si congratula con se stesso per aver avuto l'intelligenza di sceglierla. Perché farle una proposta se voleva che lei dicesse no? Mi sembra un procedimento molto strano, disse Susan, immediatamente aggiungendo con insostenibile umiltà, benché indubbiamente io non ne so niente di queste cose. Glielo aveva ordinato suo padre, lui non voleva, ma pensò che non correva nessun rischio. Oh, ecco, c'è il dottore. Mentre Gilbert entrava, una piccola raffica di neve volò dentro con lui. Liberatosi del cappotto, felice si mise a sedere vicino al camino. Sono tornato più tardi di quanto mi aspettassi. Oh, senza dubbio la nuova camicia da notte di Pizzo era molto attraente, disse Anna con un sorriso malizioso a Miss Cornelia. Di cosa stai parlando? Ah, suppongo di qualche battuta femminile che va oltre la mia rozza percezione di maschio. Sono andato a Upper Glen per vedere Walter Cooper. È un mistero come quell'uomo resti aggrappato alla vita, disse Miss Cornelia. Mi sta esasperando, sorrise Gilbert. Dovrebbe essere morto da un pezzo. Un anno fa gli ho dato 2 mesi di vita ed è lì che mi sta rovinando la reputazione sulla custodia della vita. Se tu conoscessi Cooper così come li conosco io, non arrischieresti previsioni su di loro. Non sai che il nonno è tornato in vita dopo che avevano già scavato la fossa e comprato la bara? Il becchino non voleva neanche riprenderla indietro. Tuttavia, capisco che Walter Cooper si stia divertendo molto provando il proprio funerale, proprio tipico di un uomo. Beh, ci sono le campanelle di Marshall e questo vasetto di pere in salamoia è per te, Anna cara. Tutti andarono alla porta a salutare la partenza di Miss Cornelia. Gli occhi grigio scuro di Walter scrutarono fuori nella notte in tempesta. Mi chiedo dove sia Cock Robin questa sera e se sente la nostra mancanza, disse malinconicamente. Forse Cock Robin era andato in quel luogo misterioso che Mrs. Elliot sempre definiva come la terra del silenzio. Cock Robin è in una terra soleggiata a sud, disse Anna. Tornerà in primavera, ne sono proprio certa. Mancano solo 5 mesi. Bambini, dovreste essere tutti a letto già da tempo. Susan, in cucina, Dee stava dicendo, ti piacerebbe avere un bambino? Io so dove si potrebbe ottenerne uno nuovo di zecca. Vediamo dunque dove. Ne hanno portato uno nuovo da Amy. Amy dice che l'hanno portato gli angeli e lei pensa che avrebbero potuto avere più giudizio. Hanno già 8 bambini adesso, senza contare quello. Ti ho sentito dire ieri che ti fa malinconia vedere Rilla crescere così. Non avrai più bambini piccoli. Sono sicura che Mrs. Taylor ti darebbe il suo. Le cose che pensano i bambini. È ereditario nei Taylor avere famiglie numerose. Il padre di Andrew Taylor non era mai riuscito a dire lì per lì quanti bambini avesse, doveva sempre fermarsi a contarli. Ma non credo che mi prenderò nessun bambino da fuori per adesso. Susan, Amy Taylor dice che sei una vecchia zitella, è vero, Susan? Sì, tale è il destino che una provvidenza onnisciente ha ordinato per me, rispose Susan, senza batter ciglio. Ti piace essere una vecchia zitella, Susan? Non posso sinceramente dire che faccio la cosa che preferisco, ma, aggiunse Susan, ricordando la sorte di alcune mogli che conosceva, ho imparato che ci sono delle compensazioni. Ora porta la torta di mele a tuo padre e io gli porterò il tè. Quel pover'uomo sarà sul punto di svenire dalla fame. Mamma, abbiamo la casa più bella del mondo, vero? Disse Walter mentre andava assonnato al piano di sopra. Solo, non pensi che sarebbe meglio se avessimo un paio di fantasmi? Fantasmi? Oh sì, la casa di Jerry Palmer è piena di fantasmi. Ne ha visto uno, una signora alta vestita di bianco e con una mano di scheletro. L'ho raccontato a Susan e lei ha detto che era un piccolo bugiardo o aveva qualcosa che non andava con lo stomaco. Susan aveva ragione. Per quanto riguarda Ingleside, qui hanno solo e sempre vissuto persone felici. Così, vedi, non siamo fantasmabili. Ora di le tue preghiere e poi a nanna. Mamma, credo di aver sbagliato la notte scorsa. Ho detto, dacci domani il nostro pane quotidiano invece di oggi. Mi sembrava più logico. Pensi che a Dio dispiaccia, mamma?